accompagna la canzoncina alta in te. Di notte ogni balcon racchiude un fior. Gli amanti si nascondono, rapiti da quel fascino, con l'ansia dell'amore che fa palpitar. Col sole terra amore tu dai calore, con te chi vuole amare potrà sperare. Fioriscono i tuoi vicini, insieme a tanti spasimi, tu sola fai sognare, poi sospirare. Stelle di Spagna dai mille riflessi d'or, luci d'incanto dal fascino tentator, mentre Siviglia stanotte risplenderà, voi sorridete di tanta felicità. Stelle di Spagna dai mille riflessi d'or, illuminate solo tanto chi vuole amar, la sibigliana più bella vorrei baciar, la stella sarà del mio cuore.